Iniziamo magari allora. Bene, faccio io gli onori di casa. Benvenuti a tutti, grazie a chi sta partecipando a vario titolo. Questo è uno dei due tavoli che si svolgeranno in questi 2 giorni che abbiamo organizzato oggi qua in Polveriera e domani all'occupazione di Viale Corsica 81. È 1 o 2 giorni di arte in cui ci saranno dei tavoli che vogliono dibattere di alcuni argomenti. Questo è il primo. Nel frattempo ci saranno delle decorazioni, alcune le vedete qua intorno, e cercheremo insomma assieme al collettivo Viola di Milano, assieme all'Assemblea Ribellarti di Firenze, assieme a artisti e partecipanti da tante altre città, di andare a fondo per quanto possibile su due argomenti. Il primo di oggi, che riguarda le nuove forme di produzione e diffusione artistica, e domani invece cercheremo di stare sull'argomento repressione nell'arte. Non sto a fare nessuna introduzione, lascio la parola insomma a Fausta della Polveriera per fare l'apertura. Ricordo soltanto che domani alle 15 in Viale Corsica corso una workshop di xilografia e poi a seguire ci sarà il tavolo e a posteriori di questo ci sarà la presentazione della rivista Ribellarti. Parliamo insieme a Corrado Gemini, un musicista di Control, al curatore indipendente Simone Pallotta, all'artista Vincenzo Marrese, allo scrittore Daniele Gambit e all'artista Marco Teatro, ovviamente poi insieme a chiunque vorrà partecipare insieme a noi. Nel passare la parola prego tutti di parlare al microfono perché questo tavolo sta venendo registrato per Radio Wombat e nei prossimi giorni sarà disponibile integralmente sul sito della radio. Beh, benvenuti e insomma, buon incontro. Buonasera a tutti. Il primo argomento di cui parleremo oggi è le nuove forme artistiche, ma forme artistiche comunque provenienti dal basso, forme artistiche non convenzionali al sistema dell'arte, forme artistiche che nascono grazie all'occupazione di spazi che vengono sottratti dalla società e di conseguenza all'interno di questi spazi si sviluppa tutto ciò che è lontano anche dalle logiche della mercificazione. Tutto ciò viene sviluppato attraverso un linguaggio ludico. E ciò riguarda anche la parte artistica, che è fondamentale. È fondamentale principalmente, anche per chi non lo sa, io ho fatto una corposa tesi su come l'arte è entrata a far parte dei circuiti, dei centri sociali, lontani dalla logica della mercificazione, e che grazie all'arte in realtà noi ci troviamo all'interno di questi spazi, perché il motore che ha dato modo di spronare coloro che ci hanno preceduto per quanto riguardano l'ambiente antagonista è stata proprio l'arte. Pensare che l'arte possa ancora cambiare il mondo, la società, e per fare in modo che questa arte liberata dalle logiche della mercificazione potesse svilupparsi all'interno della società, non essendo per forza plagiata dal mercato, è nata appunto nel concetto di un posto liberato, che fondamentalmente i primi anni, negli inizi degli anni 50, in cui si iniziò a teorizzare questi posti lontani dal capitalismo, è stato chiamato l'urbanismo unitario. L'urbanismo unitario è il principio del primo centro sociale, dove tutti potessero sviluppare in maniera ludica una serie di giochi attraverso la successione degli eventi, attraverso situazioni che si creavano lì temporaneamente, e da lì proviene il nome situazionista. Ovviamente, nel momento in cui nasce un posto in cui si discosta da tutto ciò che è conforme alla società, anche l'arte prende un, si ritrova in parte ad affrontare comunque un discorso proveniente dalla lotta del capitalismo e ottenendo appunto diverse forme di arte, diversi modi di affrontare l'arte, appunto riformando anche il concetto di pittura, la pittura non una pittura che provenga dalle gallerie, la pittura che ci hanno da sempre propinato all'interno delle scuole, ma la pittura proveniente dalle strade, che parlasse delle persone, della gente che frequenta i quartieri, che li vive. E appunto negli ultimi anni abbiamo anche visto come anche quest'arte proveniente dalla strada sia stata mercificata e rinchiusa anche in alcuni musei, creando anche appunto musei di street art. Scusate. La street art è una forma d'arte alternativa, d'arte appunto proveniente dal basso, perché tutto ciò che differenzia l'arte mercificata dall'arte ludica che si sviluppa all'interno dei centri sociali e che appunto essa è libera e accessibile a chiunque. E per questo motivo l'arte all'interno della street art, più che altro il graffitismo è stato, perché la street art comunque, come ben sappiamo, è un mezzo artistico istituzionale, quando in realtà il graffitismo proviene dalla strada. È un mezzo di sovversione artistica attuale, come anche partendo anche da un concetto comunque del 68, perché nel momento in cui c'è stato lo studio di ottenere un posto che fosse liberato dallo Stato capitalista, questo studio fu effettuato all'inizio degli anni 50 e attuato esclusivamente solo nel momento in cui ci furono le prime rivoluzioni sessantottine, precisamente nella Rue Gay Lussac a Parigi, con l'effettiva occupazione della Sorbona. E da lì si pensò di creare un posto in cui si sviluppasse comunque tutto in maniera ludica e non più pensare un posto che si trovasse lì in un determinato momento per poi sfuggire dal controllo dello Stato e occupare un altro posto lì dove ce n'era bisogno. E quindi lì si è... di conseguenza si è rivalutata anche l'idea dell'azione ed è anche dell'arte stessa, perché uno dei principali, ciò che ti colpisce entrando in un posto occupato è proprio come l'arte viene intesa in maniera diversa. Ovviamente le altre diverse forme d'arte, a parte il graffitismo, che è considerata comunque appunto un'arte liberata, sono anche i diversi metodi di propagazione della controcultura e di conseguenza della controinformazione. La controinformazione si è riuscito ad ottenerla attraverso la divulgazione di fanzine, di materiale che mettesse mano sulla coscienza degli studenti, delle persone che realmente stavano vivendo la società e che stavano combattendo per ottenere una società migliore, attraverso la diffusione di questi volantini che venivano prima di tutto stampati in proprio e quindi eliminato il concetto del copyright, e questo si ebbe comunque agli inizi dell'occupazione della Sorbona, per poi divulgarsi nella controcultura punk con le cosiddette fanzine che rappresentavano che raccontavano il disagio dei quartieri e di ciò che vivevano le persone e facevano per far sì che ci fosse una società più sana e migliore. E nonostante questo, la contestazione del mercato dell'arte parte anche appunto da quando l'arte è considerata un'arte partecipativa, ovvero quando negli anni 60 non è più l'opera d'arte l'oggetto essere considerato tale, ma l'artista diventa l'arte stessa. E quindi c'è stata una contestazione per quanto riguarda gli happening, che sono le cosiddette performance, da alcuni studiosi dell'internazionale situazionista, che furono coloro che concepirono il cosiddetto centro sociale con delle azioni performative alternative, perché le avanguardie sono morte negli anni 30, e all'inizio degli anni 30 l'arte era morta, non c'era tutto ciò che poi veniva propinato dopo gli anni 30 era arte comunque mercificata, che era tesa alla mercificazione, come la pop art, mentre gli artisti, in particolar modo gli artisti che lottavano dal basso e quindi creavano arte dal basso, avevano pensato di creare delle azioni performative, appunto, che non fossero coordinate dall'artista, quindi il nome artista come esaltazione dell'individuo e in seguito dell'individualità, ed era quello di cui volevano combattere, l'individualità e l'alienazione della persona all'interno della società, e quindi creare una collettività. E il nome dell'artista venne abolito, e ciò che è comunque salta anche il concetto del graffitismo, dove l'artista non viene minimamente riconosciuto e si appropria dell'anonimato, ed è questo uno dei vantaggi dell'artista, che non lavora per se stesso ma lavora per gli altri. E da lì parte anche il concetto di appunto performance legata al sabotaggio del sistema stesso, perché ad un certo punto l'arte è diventata fine a se stessa, nel momento in cui l'arte esaltazione della vita, del gioco, del divertimento, doveva essere concepita in questo modo. E nel momento in cui l'arte è stata concepita in questo modo, un teorico del sistema dell'internazionale situazionista, Debord, ha affermato che un'azione diretta nei confronti dello Stato era una delle performance migliori che gli artisti potessero eseguire per sabotare il sistema. Lui fa alcuni esempi, come un gruppo attivista britannico che si chiama Space for Peace, dove hanno irrotto in una base militare della Gran Bretagna, dove nascondevano dati di politici e funzionari del Consiglio Comunale, del Consiglio Nazionale, e li trasmisero e li resero pubblici. Oppure un'altra azione di performance alternativa è stata considerata appunto una performance efficace, quindi non fine a se stessa, è stata un'azione avvenuta a Caracas, dove alcuni artisti sono irrotti all'interno di una mostra, rubando 5 quadri e in cambio di alcuni prigionieri politici. Ed è qui che l'arte entra in gioco con la vita stessa, con l'azione, con il riprendersi la propria vita dal basso, ovviamente. E appunto alcune di queste di queste azioni li ritroviamo ancora tutt'oggi attraverso appunto la street art, attraverso la rappresentazione di ciò che preme della società, di ciò che non riusciamo ad accettare della società, come ha fatto il collettivo Ribellarti. E E io ho praticamente studiato questo. Mi sono informata di questo perché ad un certo punto all'interno della mia vita non riuscivo ad accettare il fatto che io dovessi soccombere ai curatori, alle mostre. Non mi interessava questo. Io volevo dell'arte di cui potessero beneficiarne tutti senza alcun minimo vincolo. E ora passo la parola a Vincenzo. Sicuramente, diciamo, penso che le radici nel sensazionismo, nei discorsi di Debord, così, hanno molto a che vedere con un aspetto, diciamo, dell'arte legato anche a qualcosa che riguarda la ribellione, la rivolta, anche se mi sembra un po' che il situazionismo, diciamo, poi va oltre, cioè supera il discorso artistico, e quindi, diciamo, poi anche le riflessioni sulle performance, sugli happening, mi sembrano in parte valide, in parte limitate, diciamo. Io come artista opero in questo momento soprattutto nell'ambito della performance, insomma, diciamo, di un filone legato a quello che si potrebbe definire performance art, diverso da quello da cui si riferivano anche Debord, così, che era di radice dadaista, che è comunque una delle fonti da cui a cui si possono ricollegare alcune cose che riguardano, diciamo, la performance art, cioè l'idea di costruire delle azioni in cui non c'è una rappresentazione, no? E quindi, diciamo, l'artista opera sul momento, sul qui e ora, legato al appunto a quello che sta accadendo in questo momento, senza fingere, senza rappresentare, come è nel teatro tradizionale. Penso che questa forma di espressione, diciamo, artistica può avere comunque un significato legato anche appunto a un'incidenza, diciamo, nella situazione sociale, anche se non necessariamente rimanda a un tema politico o a un'azione che vuole creare una destabilizzazione di qualcosa che avviene nel sistema in quel momento. Però, a parte questo, riguardo al tema principale di cui appunto si parlava, cioè, mi è salto la voce. Le nuove non sta facendo più. Sì, ok. Riguardo al discorso delle nuove forme di produzione artistica, vabbè, oggi ci sono bisognerebbe intendersi su cosa ci si riferisce quando si parla di produzione artistica, perché il rapporto tra l'arte e la tecnica è un po', lo vedo un pochino, diciamo, articolato. Ci sono sicuramente tanti mezzi nuovi con cui si possono produrre delle azioni, delle opere o anche delle azioni artistiche, o anche delle performance, per esempio delle performance online. Sicuramente però dipende un po' da come appunto vengono utilizzate. Si possono appunto identificare come dei mezzi nuovi, possono offrire, diciamo, delle possibilità nuove anche per agire riguardo a dei meccanismi che magari appunto si sono spostati per esempio su internet, attraverso la comunicazione su internet. Io volevo integrare. Un'altra pratica comunque proveniente dal basso che ha interessato molti compagni è stato appunto il cosiddetto fenomeno dell'acherismo sociale, ovvero l'attuazione di sabotaggi informatici da parte di hacker, però a favore di comunque delle persone che provengono dal basso. Ad esempio c'è stato un collettivo che si chiamava Walt Disney Archerino, di cui potete trovare anche il video su YouTube, ed è praticamente un'azione di hackerismo sociale dove hanno indossato la maschera d'acciaio, la maschera di Topolino e si sono infiltrati nella base militare americana per ottenere dati sulla quantità di armi che detenevano, e questo è anche considerato una forma di azione proveniente da una forma telematica, di cui ci sono anche, oltre a parte azioni così sovversive, ci sono anche azioni che si basano più sul gioco della forma, sul prendere in giro ciò che viene propinato dal sistema borghese, che è il cosiddetto detournement, ovvero la distorsione dei codici promossi dalla borghesia e dal capitalismo, quali possono essere gli slogan promossi della Coca-Cola o della Marlboro, in cui in un'azione hanno cambiato il nome della Marlboro traducendolo in It's a Bore. E ciò li possiamo ritrovare anche dal punto di vista appunto informatico, non solo dalla parte dell'hackerismo sociale, ma anche dei cosiddetti adbusters, che sarebbero i distruttori di pubblicità, e loro non fanno altro che disturbare le pubblicità provenienti da YouTube, oppure creando nuovi slogan proposti dalla Camel, le immagini proposte dalla Camel, dove qualche tempo fa loro hanno rifatto le immagini promosse dalla Camel, però rendendo visibile quello che in realtà davvero succede nel momento in cui costringe una persona nel fumare. Alla fine loro hanno cercato di far vedere anche ciò che insomma rischia, i rischi che provoca il fumo, oppure diverse, un'altra azione in cui hanno cercato veramente di utilizzare una forma, un oggetto che è stato commercializzato in una maniera pazzesca, che è la Barbie. C'è stato un gruppo di attivisti, sempre britannici, i Barbie Organization, che hanno rimodificato le Barbie rubandole da un magazzino, rimodificando i chip della voce che veniva inserita all'interno delle Barbie, perché il prototipo della Barbie, della donna frivola, della donna qui non inutile, loro hanno ricambiato questo chip, facendo in modo che la Barbie non venisse più vista come un modello di donna propinata dalla società, come una donna in cui doveva esclusivamente badare i figli, truccarsi, ma facendo vedere anche una parte diversa della donna, la parte che realmente è la donna e di quella che la società vuole abolire, ovvero la donna pronta a, che ne so, a studiare matematica. Era una cosa che era stata inserita all'interno di queste Barbie, una voce registrata in cui diceva: a me piace la matematica, a me non piace solo truccarmi. E tante altre diverse forme, insomma, di ci sono tanti esempi, per dire, perché poi appunto anche internet è uno spazio in cui si può agire in tanti modi, per dire, Non lo so, l'idea di, per esempio, produrre un sito è una cosa alla fine per certi versi anche molto semplice e un po' alla portata di tutti. E mi ricordo, per dire, una delle azioni che mi sembrava interessante, di un po' di anni fa ormai, fu quella che fecero due artisti, che poi sono di Milano, mi pare, Eva e Franco Mattes, che fecero questo lavoro sul sito del Vaticano, praticamente. Comprarono tipo un dominio che era tipo vaticano.eu, che all'epoca non era ancora libero, e fecero org, e fecero una copia praticamente identica del sito del Vaticano, fermo restando che nelle biografie tipo dei papi o una cosa del genere trascrissero delle cose tipo insomma, assurde o comunque reali in un certo senso. E per un certo periodo, finché non si accorsero di questa cosa, il sito ricevette molte visite, insomma, e quindi ebbe un certo effetto. E poi anche appunto l'idea appunto di utilizzare anche il mezzo appunto per diciamo per riflettere su dei meccanismi che mette in atto il fruire l'arte o certe cose attraverso questi nuovi strumenti, insomma. Non so se puoi aggiungere. Allora, cioè, buonasera a tutti, Simone Pallotta. Cioè, sono tutte cose estremamente interessanti, anche storicamente interessanti, però, cioè, sinceramente penso questo. Prima di tutto dobbiamo ragionare, cioè, facciamo un passo indietro, cioè, rispetto a tutto quello che è la teoria, il racconto, la storia, assolutamente su quello che sono poi delle nuove modalità e delle. Cioè, qui c'è, secondo me c'è un qualcosa, non voglio dire un problema, c'è un qualcosa alla base sulla quale dobbiamo ragionare che è l'artista, ok? Cioè, è ovvio che ci siano dei momenti in cui alcuni. Che cosa è successo dopo? Cosa sta succedendo adesso? Cioè, noi parliamo tanto oggi, vediamo quest'aura rivoluzionaria nella street art, in quelli che erano i graffiti. Sinceramente il problema sta ritornando a essere che cosa fa l'artista, cosa decide di fare. Cioè, oggi che la street art è diventata qualcosa dove giustamente, come sottolineavi te, è entrata, no, a gamba tesa dentro i musei, ma perché? Perché è sempre avvenuto così, cioè tutto quello di cui avete parlato nel Novecento è stato risucchiato dalle istituzioni. Perfetto, ok, giusto. Ma se è avvenuto così, prendiamone atto. Cioè, sappiamo che è andata in questa direzione, sappiamo che i futuristi dicevano bruciamo i musei, ma poi dopo ci volevano entrare e ci sono entrati alla grandissima. Quindi siamo in una situazione in cui, secondo me, dobbiamo prima di tutto ragionare su chi è l'artista, quanto l'artista veramente si impegna, cosa mangia l'artista domani. Cioè, le questioni relative a quelli che possono essere i nuovi mezzi con cui realizziamo, con cui facciamo arte, con cui cerchiamo di rompere un certo tipo di schemi nella società attraverso l'arte, vivono sempre di un grande entusiasmo iniziale e sono pochissimi. Guardiamo nella street art, ce cioè lo sappiamo tutti, cioè l'unico artista che a livello internazionale riconosciuto, che è già sui libri dell'arte a meno dei 40 anni, che è Blue. È l'unica persona che ha dovuto fare 40 passi indietro e decidere di avere una linea di rapporto con il mondo molto, molto, molto radicale. E se guardiamo nell'ambito della street art, io vengo dai graffiti degli anni 90, tra l'altro io stavo cioè, in gruppo di graffiti con tutti i toscani, KNM, chi insomma c'ha un po' la barba bianca se li ricorderà sicuramente, da cui poi sono usciti due street artist che girano il mondo, che sono Ethnic e Zedd, no? Però, cioè, anche nei graffiti, i graffiti sì, cioè, personalmente ho fatti 10 anni, penso che posso dire la mia. Cioè, sì, il movimento, ma poi alla fine è sempre stato uno contro l'altro. Cioè, il nome non esiste, ma il nome esiste come? Perché non ce ne fregava niente degli altri, cioè delle persone che erano fuori dal giro del writing e di chi non capiva il writing, lo facevamo per noi. Come qualcosa che conquistava, cioè che ti portava a conquistare una città che non era più tua. Cioè nel grigio più totale, nell'indifferenza più totale, nell'avvio di un mondo di merda che è quello degli anni 90, dove cioè, hai riscoperto una roba per cui eri tu da solo per strada insieme a altre persone che amavano quella cosa, ovvio che c'era un entusiasmo incredibile. A che ha portato? Boh, cioè non lo so, l'ha portato al fatto che ancora oggi le persone che cominciano a fare i graffiti, che molto spesso sono ragazzi giovanissimi, lo fanno con un grande entusiasmo perché ti permette di essere fuori da un certo tipo di schemi, fuori da un certo tipo di necessità, fuori dal fatto che non devi andare in accademia, fuori dal fatto che comunque ti puoi permettere, rischiando e prendendoti la tua responsabilità, di dire quello che vuoi. I graffiti quanto hanno detto? Boh, cioè, nel senso, l'ho sempre pensata più come una grande, grandissima espressione personale. Questa è diventata poi la street art, cioè il cambio che c'è stato in Italia a cavallo tra gli anni 90 e i 2000, in cui alcune persone, tanta gente degli arrivavano tante cose dall'America, quindi molto stencil, ma tutte le persone come Blue, come Eric Arcani, come tutti quelli della prima ora, che venivano dai graffiti o venivano dall'uso della bomboletta, perché non ci dimentichiamo che, cioè, uno come Blue nel 2001 faceva le sue figure, le faceva con gli spray, poi a un certo punto ha capito, ok, con una latta di colore faccio 100 metri quadrati, invece di fare 2 metri quadrati, faccio più grande, ingrandisco, visibilità. Poi c'è stata attenzione, io vengo da Roma, dove la guerra tra il writing e la street art è stata una cosa senza quartiere, per cui cioè, sembrava che fossero arrivati gli invasori, quando invece erano le stesse persone che avevano deciso di dire ma a me forse del writing non mi interessa più niente, bellissimo, però voglio dire qualcosa in più. Guerra senza quartiere, quindi sto movimento, cioè, dov'era? Quindi la cosa che io vorrei sottolineare e portare qui è: cominciamo a parlare dell'impegno degli artisti. Avete fatto degli esempi fantastici di cose bellissime che fanno parte dell'immaginario, soprattutto di chi studia storia dell'arte e ha un certo tipo di pensiero laterale, che ha una certa capacità di comprendere quando un certo tipo di meccanismi o di arti artistici veramente rivoluzionano il mondo. Allora, cioè, una cosa del genere, oggi come oggi, cioè, uno come Banksy, come lo prendiamo? Cioè, uno che fondamentalmente nessuno sa come cazzo si chiama, cioè il paladino del mascheramento, del riuscire a fare quello che vuoi, però è pure uno che poi fa le mostre, vende un quadro a un'asta da Christie a un milione di sterline. Cioè, tutto si è molto confuso, bisogna ricostruire i parametri, capire se l'arte realmente è servita a qualcosa oppure è servita, guarda, piano piano poi giustamente agli artisti a arrivare dove volevano. Quali sono le vere caratteristiche di, come hai detto te giustamente, io apprezzo molte volte molto di più chi magari fa dell'attivismo a livello appunto di hacker e che va a fare delle azioni reali che poi molte volte riescono a essere anche esteticamente, formalmente interessanti, no? Cioè, scompaginare un sito è interessante visivamente, mentre invece io vedo, cioè, tanta street art che ripete dei canoni del Novecento già triti e ritriti, non c'è niente di innovativo. Cioè, non possiamo giustificare tutto solo perché la stiamo facendo in giro, allora ci riappropriamo della città. Sì, ma poi gli stessi street artist che 10 anni fa sentivano la necessità di riappropriarsi della città, oggi comunque, cioè, si abbassano i pantaloni e lo fanno per i privati. No, l'ho detto in negativo, ma in realtà non penso che sia così negativo, perché se tu vivi della tua arte, cioè, fai quello fondamentalmente, se no fai un'altra cosa. Cioè, e purtroppo sappiamo qual è la consistenza economica che c'è nel lavorare con l'arte senza avere dei ritorni. Poi dura 5, 10 anni, 15 anni, 20 anni, devi essere veramente uno forte che decidi di abitare. Cioè, parlando con uno come Blue ti dice, io, cioè, quasi vorrei smettere, cioè vorrei stare proprio totalmente da un'altra parte, vorrei stare sul mare, a guardare il mare, averci 2 lire in tasca, cioè quasi non farla più, perché poi tutto quello che lui ha fatto e che pensava che fosse la vera rivoluzione, e io cioè, lo dico, cioè, con il cuore spezzato, perché comunque, cioè, io sono stato il primo che ha portato Blue a Roma nel 2006, la roba che ha fatto al Forte Prenestino l'ha fatto col colore che gli avevo dato io, cioè lo sento come una cosa personale, pensare che queste cose all'inizio degli anni 2000 erano veramente delle cose che, cioè, io ci ho visto veramente un cambio forte. Perché? Perché erano cose che cominciavano a parlare con le persone. Perché ho deciso di chiamare Blue per primo? Perché era quello che magari formalmente era acerbo rispetto a delle cose, cioè non era un gran pittore, e lui è il primo che lo dice, però era uno che aveva fatto, aveva cercato, riprendendo un po' dal muralismo messicano, innestando dei ragionamenti nuovi sulla contemporaneità, cercava, allora, solo se facciamo come ha fatto Blu, come ha deciso di fare Blu, cioè di vendere 4 disegni una volta all'anno, una volta ogni 2 anni e campare con quei pochi soldi senza vendere mai niente, proteggendo gli spazi sociali, ma è una scelta estremamente radicale. È uno su quante street artist oggi in Italia, ad esempio, nel mondo? Quindi l'arte, quel tipo di arte, la street art nel mondo, cioè quanto sta aiutando il movimento realmente? Queste sono domande che ci dobbiamo fare, perché dobbiamo partire dall'artista, perché cioè, alla base di tutte queste discussioni c'è l'artista. Se non è l'artista il primo che si prende la responsabilità rispetto a certe cose, cioè io ho fatto il curatore, ma cioè, dopo per esempio il lavoro che ho fatto io, dove c'erano dei soldi comunali per rifare una stazione, 4 lire nel 2006, quando nessuno ci credeva a queste cose, io non ho mai scritto street art, perché la mia era un'operazione di arte pubblica di nuova generazione, cioè quel nome che veniva usato dalle istituzioni, cioè arte pubblica, cioè la scultura nella rotatoria buttata tanto per, io ho detto no, la facciamo con un'altra testa, cioè con una testa di rigenerazione attraverso un lavoro che è sociale da una parte, artistico dall'altro, uniamo queste due cose. Però poi dopo, lo stesso Blu dopo 2 anni si è rotto le palle, perché? Perché sono andate male delle cose, le istituzioni non l'hanno rispettato, i privati non l'hanno rispettato, e ha detto io non lavoro più con nessuno. Cioè non vedrete mai più nella vita di Blu un lavoro con lo stemma di un qualsiasi logo del municipio. Cioè non esiste. È una scelta. Allora, senza che mi allungo, poi ne riparliamo, ma partiamo secondo me da questo, cioè più che dalle motivazioni o dagli strumenti che possiamo mettere in campo, è quanto l'artista oggi mette la sua faccia e si responsabilizza rispetto a questo? Seconda domanda, è così necessario? Cioè pensiamo che sia veramente l'arte, o forse siamo proprio tutti che ci dobbiamo riattivare e dobbiamo cercare di far riattivare le persone che sono totalmente abbandonate su loro stesse, politicamente, attivamente, quello che sia. Cioè non diamo tutto questo peso all'arte, perché molte volte, e la storia ce lo insegna, ci ha deluso. Cioè è rimasto qualcosa di estremamente forte dentro di noi emotivamente, che ci deve dare la motivazione, il significato per fare le cose. Ma non possiamo sperare che sia questo a cambiarle. Per me oggi. Provo a dire qualcosa io. Ciao a tutti. Mi chiamo Corrado, vengo da Milano, sono dentro Viola, sto per il resto lavorando su un progetto che riguarda la musica, riguarda la riorganizzazione del lavoro musicale all'interno di quel delirio che è il mercato della musica oggi, che tra tutte le filiere della produzione culturale, tra cui anche la street art, è quello che è stato devastato più di tutti sostanzialmente dal digitale prima e da internet poi, che ha completamente ribaltato tutto. E mi sto occupando di questa cosa. Sono dentro Viola perché in generale seguo un po' tutte le lotte che riguardano il lavoro culturale e anche l'arte pubblica, sia produzione culturale che molto spesso un lavoro. E, per quanto riguarda quello che è stato detto fino adesso, sì, il capitale ti mangia, cioè, questo è scontato, anzi la storia della cattura del capitale nei confronti della messa a profitto del capitale nei confronti della produzione culturale tutta è una storia di 2000 anni, non so come dire, se vogliamo intendere il capitalismo in una maniera diciamo, estrema, se no possiamo parlare di poche centinaia d'anni, ma vabbè. E, per cui sì, è un tema grosso, ricorsivo e apparentemente imbattibile. Nel senso che cioè, non soltanto il capitale ti mette a profitto la produzione culturale underground, tipo il blues. Per dire, il blues è una cosa che è nata esattamente dal basso come la techno, non so come dire, per dire, e stiamo parlando degli anni 20 e già lì c'era la Columbia Records che prendeva e metteva a profitto, eccetera, eccetera. Quindi parliamo di una storia lunghissima. E, non solo mette a profitto la produzione culturale veramente, ma mette a profitto anche il conflitto, ok? Gli indignados di Madrid, ancora prima di andare al governo, in Parlamento, in Spagna con Podemos, sono andati alla Biennale di Berlino, non mi viene in mente altro, ma c'è robe, cioè, la street art non ne parliamo, ecco. Non soltanto viene messo il conflitto a profitto, ma viene messa anche la produzione culturale di conflitto underground a profitto, tipo la street art, ad esempio. L'ultimo video di Che Pecchegno, quella schifezza allucinante dove lui gira con la Lamborghini davanti al Leon Cavallo di Milano, e vengono inquadrate un sacco di opere, alcune delle quali probabilmente anche di autori che dipingeranno qua, è un altro esempio di come uno che tra l'altro prima ci girava pure nei centri sociali, poi adesso ti dice io sono figo, io ho i soldi, ho la Lamborghini, faccio i soldi uguale Dio e ti rubo pure i graffiti fuori dal Leo per farmi il video con la Lamborghini, cioè, per cui siamo all'ottavo livello di cattura, non so come dire. Per cui secondo me il discorso non può, come diceva Simone, che partire da una presa di coscienza rispetto al fatto che comunque noi dentro la società del capitale ci viviamo, perché non viviamo alle Hawaii, nonostante poi sta pure la società del capitale, o non viviamo, cioè, non so, tipo in cima all'Everest, ci viviamo in mezzo, e in qualche maniera dobbiamo fare i conti col fatto che noi nel cuore ci abbiamo sentimento e dobbiamo produrre qualcosa, canzoni, muri, poesie, tele, qualsiasi cosa, sculture, eccetera, eccetera. Noi abbiamo questo bisogno di produrre, che poi sia produrre qualcosa in conflitto con la società o produrre invece poesie d'amore, cioè qualsiasi cosa. Comunque noi abbiamo questo bisogno di produrre lo dobbiamo soddisfare all'interno di un sistema in cui o andiamo a capocciate come qua dentro, tipo occupiamo e facciamo una resistenza, o comunque a una certa dobbiamo trovare quella quadra rispetto al mangiare con quello che produciamo, oppure a lavorare 8 ore al giorno in miniera e fare le poesie solo la sera. E il tema secondo me è questo, cioè il tema dell'incontro di oggi, che è le nuove forme di produzione culturale. Secondo me il discorso riguarda esattamente questo punto, ovvero posto che ok, noi dobbiamo vivere dentro la società capitalista e dobbiamo fare i conti col fatto che più o meno quello che produciamo sarebbe bello se ci garantisse il fatto di poter continuare a farlo senza dover piccozzare il carbone per 12 ore al giorno. Riguarda il discorso relativo a come facciamo a realizzare questa cosa in maniera non... non capitalista, cioè non essendo noi nelle nostre, cioè proprio anche dentro questi spazi qua, perché secondo me questi sono anche spazi che tu apri per poi avere il tempo e lo spazio appunto per poter magari inventare cose nuove che non si riescono a inventare fuori. Come ripenso il mio stare dentro a una società che comunque mi deve far mangiare con la produzione culturale in maniera anticapitalista, in una maniera che sia il più difficile possibile da rimangiare da parte del capitale, ok? Quindi in una maniera che sia tutelata rispetto a quella continua dinamica di cattura che non ce la leviamo di torno neanche nel 2018. E secondo me è un po' questo il punto di tutta la questione. Come si fa oggi a stare dentro a sta società di merda, riuscendo non soltanto a imporre i contenuti? Perché imporre i contenuti non basta, perché i contenuti te li mangiano, e poi tu c'hai la campagna di Gucci con le modelle, i modelli fotografati tipo in cima a una staccionata con tutti tipo black block, con i fumogeni, ma sono fighissimi. Cioè non solo i contenuti, ma anche i modi di produzione. Perché se noi esprimiamo contenuto conflittuale, però all'interno di un modo di produzione che è comunque capitalista, cioè viene bevuto e poi arriva Gucci che c'ha i milioni e quello, cioè, sicuramente c'è più potenza di noi per poterci svuotare quel contenuto, eccetera, eccetera. Per cui come pensare i modi di produzione? E per cui questo secondo me era per tornare un attimo a quello che secondo me dovrebbe essere un po' il cuore della discussione di oggi. Per quanto riguarda questo, noi stiamo lavorando con la musica è esplosa. Cioè, nel senso, tu 50 anni fa, per poter fare un disco avevi bisogno di qualcuno che ti dava un sacco di soldi per dover registrare dentro gli studi che costava una cifra, stampare i dischi, spedire i dischi, fare una comunicazione che costava una cifra, eccetera. E quindi, cioè, c'era proprio una sottomissione degli autori rispetto a chi aveva i soldi per fare la filiera musicale. E invece questa cosa oggi è completamente esplosa, perché tu c'hai Gali, che il disco con cui diventa famoso e oggi ha fatto 8 milioni di visualizzazioni in 24 ore, con una merda allucinante, però c'è Gali che il primo disco lo fa in casa. Cioè, la musica è una filiera che è stata completamente ribaltata dall'inizio alla fine, dalla produzione alla distribuzione, perché oggi vai, metti una traccia su SoundCloud e sei in Giappone, ieri dovevi spedire un disco in Giappone, cioè proprio esplosa. Lavoriamo su questo, però beh, tornando al discorso invece che riguarda l'arte pubblica, murale, ma anche non murale, insomma, graffiti, ma anche street, ma anche nessuno di questi, insomma, anche poesia d'assalto, cioè insomma tutta questa cosa qua che riguarda andare a fare le cose fuori, la questione è complessa, è vecchia, perché già da, non so, da Hering e Basquiat che c'è in atto quel meccanismo lì, ok? E se posso dare un mio punto di vista così sulla cosa, secondo me oggi uno dei punti molto, molto interessanti di questa questione qua, su cui si può veramente confliggere in maniera convincente, è esattamente quello a cui mi riferivo prima quando parlavo del video di Gepecchegno che ti usa i graffiti dietro, cioè ovvero il fatto che l'arte pubblica, anche non commissionata, quindi anche il graffito illegale, anche al graffito illegale viene riconosciuto il diritto d'autore. Ok? Che, attenzione, cioè noi siamo per l'open source, per il copyleft, anti-copyright, eccetera, eccetera, e fin qua, siamo tutti d'accordo, però a quanto pare ci sono sempre più tribunali che stanno riconoscendo il fatto che un'opera, anche una tag, vi faccio un esempio, questa è una roba di un anno fa, o di un anno e mezzo fa, McDonald's ha rinnovato tutti i McDonald's, tipo che adesso hanno dentro questi pannelli stampati, un po' che sembrano dei muri con delle tag, no? E quelle tag lì se le ha rubate, belle buone, da dei muri in giro. Cioè ha mandato in giro della gente, ha fatto le foto, le hanno scontornate e hanno già fatto i pannelli. Fatto sta che un giorno uno di questi writer qua entra al McDonald's, si gira, vede la sua tag e dice: che cazzo ci fa la mia tag qua dentro al McDonald's? Da lì inizia una causa che alla fine riconosce ragione al writer, che ha potuto tramite delle foto dimostrare il fatto che qual è la sua tag, e McDonald's ha lasciato i pannelli che aveva già messo, ha cambiato le grafiche di quelle che avrebbe fatto dopo e gli ha dato un botto di soldi. Cioè questo per far capire il paradosso che è in corso oggi in termini proprio giuridici sul tema dell'arte pubblica, che secondo me è un paradosso che, e qua per concludere il mio intervento se non diventa un pippone, che è molto sarebbe molto interessante da cavalcare, soprattutto in un momento come questo, in Italia ma anche altrove, dove comunque la cultura black, l'underground, l'hip hop, la trap, fanno un uso massivo di tutta quella che è non soltanto arte pubblica non commissionata, ma anche tutta proprio una costruzione culturale, se ne sono appropriata la Universal, la Warner, eccetera, eccetera, si spartiscono gli artisti, e miliardi di euro che volano da tutte le parti. Questo è un punto molto interessante su cui oggi secondo me si potrebbe ragionare in termini anche di sindacalizzazione, cioè inteso in senso largo del termine, cioè in termini di riorganizzazione di tutti quelli che sono i produttori della filiera, che sono quelli che sono gli artisti che oggi stanno dipingendo e oltre. Si potrebbe insistere su questo è molto interessante. Qua magari passo la parola anche a qualcun altro che, tipo Ivan, potrebbe raccontare un caso che lo riguardo, o Marco anche. Ho spostato un po' tutto, però così, vai. Adesso? Sì. Ok, va bene. Ciao a tutti, io sono Marco Teatro. E vabbè, faccio un piccolo breve excursus io ho iniziato a fare, diciamo, murales, perché li chiamo murales, quelli che facevo all'inizio, nei centri sociali, a Milano, sono di Milano, e in un periodo che ancora graffiti non se n'erano, io addirittura mi ricordo la città di Milano pulita, dove non c'erano né firme né graffiti, quindi parlando di parecchio tempo fa. E all'epoca frequentavo case occupate, centri sociali, stavo al Virus, che era un centro sociale punk che c'era a Milano a metà anni 80, e lì facevo già disegni sulle pareti, facevamo cose in stile punk, ovviamente, perché l'hip hop era ancora da venire in Italia, quindi eravamo tutti punk, facevamo cose punk, Atomo compreso, che era un po' più grande di me, aveva un paio d'anni più di me, però anche lui faceva all'inizio cose molto fumettistiche, disegnava anche lui coi pennelli, e già comunque usavamo molto il bombolette spray, anche se esistevano pochissimi colori, per fare mascherine, un po' come faceva Black Lerat a Parigi. Comunque più o meno conoscevamo anche tutte quelle situazioni là, e già si usavano molto le mascherine, tanto che Milano era piena di mascherine, tutte molto politiche. Ovviamente nessuno faceva una firma, nessuno si firmava, nessuno faceva delle cose facendo vedere che era lui stesso, come poi invece è avvenuto con la cultura del writing, che è arrivata dopo. Eravamo tanti giovani, tanti punk, tanti studenti, tante persone che comunque facevano una vita collettiva. Quello che facevano lo facevano in un ambiente collettivo e per una collettività, e con una prospettiva politica o sociale. Sia i contenuti delle mascherine stesse che dei disegni che facevamo sui muri era una cosa che aveva a che fare, o che comunque era discussa o studiata anche insieme agli altri. Quindi non c'era questa cosa della firma e del nome personale, però nello stesso tempo avevamo anche le antenne lunghe e guardavamo cosa succedeva in America. Sapevamo che esistevano i graffiti, sapevamo che sarebbero anche arrivati, anzi abbiamo anche aiutato il più possibile a fare in modo che venissero sdoganati il più presto possibile in Italia, perché prima o poi sarebbero arrivati, tanto che addirittura avevamo iniziato a usare bombolette spray, a fare simili graffiti, però facendo dei graffiti usando gli stessi stilemi, però facevamo Atomo aveva fatto il primo a Milano, l'aveva fatto sul Salatinesca della Libreria Calusca, si usavano le letterone, però si facevano cose con cui riusciva a mandare dei messaggi, a mettere dei messaggi, e insomma si agiva un po' in questo modo. Nello stesso tempo si cercava anche di capire, di avere un occhio anche verso la cultura hip hop, che stava piano piano facendo capolino anche da noi. Infatti parallelamente cominciavano a apparire dei primi writer che iniziavano a fare qualche tag, però erano ancora tutti emarginati nelle periferie. Alla fine centro città c'eravamo noi, ma nelle periferie cominciavano dei writer esclusivamente hip hop, che non avevano nessun interesse a fare delle cose collettive o delle cose che avessero un senso politico o sociale. Quello era ancora una prerogativa tutta nostra all'interno dei centri sociali. E comunque abbiamo lavorato molto in quegli anni per creare un po' di unione, andare a cercarli e a cercare di coinvolgerli. Addirittura nell'88 abbiamo fatto la prima riunione, andando a cercare i writer uno per uno, invitandoli, mi ricordo ancora, in Conchetta, che era stata appena occupata, e c'era anche Gomma, che aveva collaborato a fare questa prima riunione. Abbiamo invitato i primi writer di Milano, e che mi ricordo ancora, c'era Graffio, Rendo, c'erano diversi, Flycat, che erano arrivati lì per fare questa riunione, e ovviamente la maggior parte di loro non avevano nessuna intenzione di fare delle cose collettive, anzi erano abbastanza contrariati dal fatto che noi avevamo intenzione di espandere il più possibile il writing, insomma assimilarlo e fare in modo che potesse espandersi per la città. Ovviamente erano dei periodi difficili, cioè noi comunque, essendo tutte persone molto politicizzate, o comunque che avevamo un impegno sociale molto forte, non ci saltava in mente di porre una firma riconoscibile o anche semplicemente farsi arrestare per un graffito, era l'ultima cosa che ci veniva in mente. avevamo, cioè, se dovevamo rischiare di essere arrestati era per qualcos'altro magari, quindi avevamo un approccio completamente diverso. Se dovevamo, quando abbiamo cominciato a fare cose più serie nel centro della città, che era abbastanza difficile, lo facevamo in gruppo, cioè si andava in 100, in 200, in 300, si occupava una piazza in pieno giorno, si portava lì i writer e noi stessi andavamo lì, dipingevamo e cominciavamo a fare pezzi, graffiti e disegni. E in questo modo abbiamo, diciamo, aperto una breccia notevole, perché con le iniziative appunto di dei centri sociali acquistavamo bombolette in grandi quantità e una volta abbiamo anche distribuite gratuitamente agli studenti durante una manifestazione da un camion con la musica, e in questo modo abbiamo fatto un'azione di divulgazione massiccia e massiva del writing. E tutto questo, diciamo, a cavallo tra dall'86 all'89 circa, poi nei primi anni 90 tutta la cosa poi è esplosa completamente, nel senso che poi sono arrivate giovanissime generazioni di writer che hanno preso piede soprattutto a Milano, poi piano piano in tutta Italia, e cioè, questa è una brevissima storia di quello che è successo, diciamo. La seconda città dopo Milano è stata Bologna, che è stata forse proprio perché lì c'erano tanti studenti, è stato un altro dei punti nevralgici dove l'hip hop si è sviluppato tantissimo, anche tutta l'Emilia, tutta la Riviera Romagnola, anche lì c'erano, lì grazie anche un po' a tutta la movida che c'era lì, e è stato uno dei primi posti che ha attirato la cultura hip hop, che era nuova, allora tutti volevano questa cosa nuova, colori, graffiti, come sono belli, sono colorati, fanno effetto, e ha cominciato a diffondersi un po' dappertutto, le discoteche che cercavano i writer per poter fare dei graffiti perché attiravano le persone, e comunque il writer, diciamo quello di stile americano, hip hop, si è diffuso tantissimo in Italia anche grazie un po' alla sua fama che si stava facendo. Dopodiché, a un certo punto, la storia la conoscete dopo gli anni 90, che da lì in poi, a un certo punto, la street art ha cominciato a prendere piede e ha cominciato a cambiare un po' questa cosa di questo purismo della bomboletta spray, che è un po' andato piano piano decadendo. E quindi io mi sono ritrovato a vivere, a passare da un periodo in cui facevo mascherine e pittura sui muri, un decennio intero in cui ho lavorato solo con le bombolette spray, un po' anche così perché ormai mi conoscevo tantissimi, lavoravo tantissimo con altri writer, ho fatto parte di un paio di crew e alla fine ho dipinto tantissimo, anche se facevo cose completamente diverse, facevo sia cose nei centri sociali sia cose in giro, ogni tanto nelle jam, in giro per l'Italia dove si ritrovava con altri writer un po' di tutta Italia, e sono divertito un sacco, mi divertivo molto, e mi piaceva anche il fatto che il writing si potesse diffondere, perché comunque io vedevo nel writing, anche se era comunque un mondo che non era un movimento, non era una cosa che aveva dei contenuti sociali particolari, però era una cosa che aveva, cioè che andava oltre, al di là dal discorso che ho sentito anche stasera qua, che da questa ricerca di dover fare una cosa che per forza deve stare dentro un movimento. No, è una cosa che, volendo, è oltre, più spontanea, è più massiva. Infatti ha preso poi un piede planetario. Ormai non c'è città nel pianeta che non sia stata riempita di graffiti. E adesso sta succedendo con la street art. Tutte le cose più interessanti, secondo me, nei prossimi anni o decenni li vedremo sviluppare nelle nuove grosse metropoli del terzo mondo, che stanno diventando sempre più grandi, e sono quelli i posti, secondo me, dove si svilupperanno delle nuove forme interessanti d'arte. Non so, questo scopriremo. Qua abbiamo avuto un po' un ritorno, cioè, in questo momento secondo me siamo in un momento un po' di decadenza dal punto di vista sia tecnico che culturale, nel senso che a livello tecnico sì, cioè, sembra che ci sia tantissimo, perché in realtà abbiamo internet, che una volta non c'era, che ci aiuta tantissimo, e uno anche che comincia a 15 anni ha già 1000 e mille input su cui farsi, su cui con cui confrontarsi, da guardare, da vedere per poter elaborare quello che vuole fare. E quindi questo è un vantaggio che viene globale, che, insomma, che ha preso un po' tutti quelli che hanno la possibilità ovviamente di accedere a internet. Ma nello stesso tempo si sono perse una marea di conoscenze tecniche che invece secondo me andrebbero un po' riprese, ristudiate e ritirate fuori, soprattutto se si vuole cominciare a proporsi seriamente verso l'esterno, verso tutto il resto del mondo, dicendo ok, noi siamo artisti, siamo pronti a fare una serie di cose, ma lo siamo veramente? Cioè siamo pronti, che so, a fare dell'arte pubblica vera? Cioè a prendere, a collaborare, perché non cominciamo a collaborare con gli architetti e dire ok, vogliamo fare dell'arte pubblica sul serio? Facciamola bene, facciamola tecnicamente bene. Dateci la possibilità di farla per davvero, però ovviamente agli artisti stessi dovrebbero cominciare loro a prendere un po', cioè a cambiare un po' modo di lavorare. Poi invece per quanto riguarda il fatto che molte persone pensano che ci sia un movimento, io sinceramente non l'ho mai visto in tutti questi decenni, perché qualche decennio che sono stato, che vedo un po' come si è evoluto tutta questa scena. C'è stata una scena, sì, c'è il movimento molto informale, quello sì, ma più che altro ne ho visti tanti movimenti, tutti diversi. Che dire? Se avete qualche domanda, vi dico qualcosa. Ivan, vuoi dire qualcosa tu? Allora, chi Afrodite, se volete interrompere un attimo, perché Argento c'è qua dentro, mi sembra un po'... Ciao e grazie dell'invito. Io sono Daniele, si sente? Io non ho particolare esperienza di street art, eccetera. No, penso che l'intento, io sono, diciamo, negli ultimi anni un po' messo un piede nel giro delle riviste, diciamo, letterarie, fanzine, anche che abbiamo portato qua alle altre, come si chiamava, l'altra vostra iniziativa. Esatto, festa del direttore sociale della Polveriera. E poi dopo in realtà penso che, ma non è un po' alto, no? Sono io che... in realtà questi, cioè, temi di cui stiamo parlando ora già li avevamo, per dire, anche affrontati in contesti diversi. Penso al Borda Fest, con cui c'era anche Corrado, quest'ultimo giro di l'ultimo Borda Fest. Nel senso che comunque è chiaro che ci sono dei temi ricorrenti, ok? Che eventualmente, evidentemente spuntano fuori, che si parli di editoria sociale, che si parli di street art, che si parli di fumetto, perché evidentemente ci sono condizioni, situazioni di lavoro, quindi di precarietà e di sfruttamento che ripercorrono percorsi simili. Voglio dire, come anche al Borda Fest, tra l'altro il Borda Fest è particolare perché appunto è un festival sul fumetto, sulle autoproduzioni, che si tiene durante e nella stessa città di un altro, di quello che è l'evento brutto, l'evento cattivo del mainstream del Luca Comics, però, e quindi è chiaro che emerge in maniera, come sta emergendo qua, emerge in maniera molto forte questa cosa di capire come vogliamo anche un po' aggiornare il discorso di autoproduzioni contro mainstream, che ormai regge fino a una certa, voglio dire, non per il fatto che lo Stato sociale è arrivato secondo a Sanremo, però cioè, chiaramente bisogna capire cosa non ci piace o cosa ci piace di certe dinamiche e, come diceva Corrado giustamente, come esploitarle, come bucarle. Nel caso che ha citato dell'artista col McDonald's è emblematico, chiaramente, e anche lì, tra l'altro, non solo è significativo per quello che è successo, ma tra l'altro, come dicevi tu, lui ha fatto uso di uno strumento che solitamente critichiamo e qual è il punto? Allora, io anche nella, anche partendo da, dal discorso su, su, proprio sulla critica alla proprietà intellettuale, anche da lì c'è, c'è una cosa, una constatazione banale da fare, cioè che il capitalismo sussume e fagocita quelle che fino a una certa sono state pratiche di lotta. E faccio un esempio, cambiando ancora di nuovo campo completamente, ma perché proprio vorrei, a maniera, io vorrei che si provasse a capire questa trasversalità veramente totale di questo discorso. Io penso che nell'informatica chiaramente è nato il concetto di copyleft, Stallman, bla bla bla. Ora, quello che succede è questo, che la Google stessa, cioè quelli che fino a 5 minuti fa pensavi fossero i padroni della proprietà intellettuale, eccetera, hanno capito benissimo che diffondere in open source i loro programmi c'è una conseguenza molto semplice, che hanno un mondo di operai non pagati e i programmatori, nel senso che chiaramente c'è un discorso che è quello di avere recinti aperti alla produzione che poi vengono chiusi intelligentemente in certe circostanze, e a volte, tra l'altro, senza stare a scendere in certi dettagli, però a volte è difficile, anche è quasi impossibile, di dimostrare quello che ha fatto quell'artista in quel momento con una foto, perché era la foto del suo graffito qua. Allora, io, e poi un'altra cosa, quando parliamo di, chiaramente di rapporto tra quello che vogliamo chiamare, perché poi, cioè, quando vogliamo capire la discriminante anche tra quel mondo là che non ci piace e quello che qualcosa ci piace, che non sappiamo neanche più come chiamarlo, io dico, io penso che quando, diciamo, io penso che la critica che si fa quando c'è questo fagocitamento nelle produzioni, il problema sono due. Il primo è l'eventuale disinnescarsi, l'eventuale disinnescarsi di un portato, ok, che era un portato linguistico, narrativo, anticapitalista, o comunque di critica sociale, ok? Quindi il problema, il primo problema è quando un venire a far parte di un percorso, che una mostra del Comune di Milano o un festival di non so chi, quando questa roba qua porta un annientamento del discorso, ma questo banalmente penso anche solo in termini linguistici. Cioè, io l'altro giorno stavo in stazione, guardavo quanti manifesti, quante pubblicità di vestiti o non so di che fa uso di linguaggi, parla di rivoluzione, parla di ribellione. Cioè, questa qua è una roba importante, e questa roba qua, quindi il primo è disinnescarsi di un potenziale rivoluzionario, come vogliamo chiamarlo. Il secondo è, come banalmente si sottolineava, è il fatto che questa roba non viene pagato. Allora, e su questa roba qua, tra l'altro, cioè, per me è molto importante, perché io penso che cioè, ora, ok, siamo anche sotto elezioni, quindi i discorsi ne piovono da tutte le parti, però penso a un pezzo molto bello che hanno scritto Fumagalli e Lamorini su Effimera, proprio in vista del delirio di propaganda da tutte le parti, e su quanto, diciamo, sulle varie proposte, sui vari, le varie proposte e interpretazioni del concetto di reddito minimo. E diceva una cosa semplice, che in realtà per me ritorna qua, perché diceva noi siamo produttori sempre e già lo siamo ormai per vari motivi, anche quando banalmente ci spostiamo o facciamo uso delle tecnologie. Figuriamoci poi se stiamo parlando di persone che studiano come elaborare un graffito, un libro, una roba, e una produzione addirittura studiata, addirittura c'è una conoscenza, c'è uno scambio. Io vorrei che, cioè, questa roba qua, quando si dice lavoro per tutti, ci sono due modi per interpretarlo. Il primo è pensare di poter mettere tutti in un ufficio, in una fabbrica, cosa impossibile, perché non ce ne sarebbe per tutti. La seconda realtà è che sta già succedendo, cioè il lavoro per tutti c'è già perché siamo qua, stiamo lavorando ora, qua fuori stanno lavorando, facendo dei murales, facendo delle robe, e questa roba qua non ci viene pagata. E io penso che un frame, un non so come chiamarlo, un tema, chiamiamolo così, che possa eventualmente ricomporre, o forse rino, perché non è mai stato composto, raggruppare quella che noi pensiamo sia una non so che chiamarlo, adesso non voglio scendere in termini classico, non classico, non lo so come, però è una soggettività che è precaria ora, che è artista, che è creativa. Sono anche qua, quanto su sta roba, anche quanto chi viene da Milano lo sa meglio, che lì sono tutti i termini nuovi, i creativi, non so. Però quanto sta roba qua viene anche usata, cioè per questo discorso sulla visibilità, eccetera, eccetera. Il fatto che una testata giornalistica più è grossa, più si può permettere di pagarti di meno, perché sa di farsi leva chiaramente su, eccetera, eccetera, su. Quindi penso che se c'è una roba che mette tutti d'accordo in questa cosa, può essere questo, cioè può essere il riconoscimento di questo lavoro. Di questo lavoro, e chiaramente poi non basta, perché appunto se poi ci chiediamo come anche riconoscere questa produzione e trovare un modo che stando in questo mercato in modo contraddittorio, penso a Macao, penso anche a come si chiama quella della moda, il festival della moda, la casa Serpicanano, no, nel senso, cioè, i casi sono tanti, ti fanno capire che per quanto non siano purtroppo cose riproducibili a volontà, cioè non possiamo dire facciamo domani, perché ci sono delle condizioni al contorno, però ti danno un'idea del fatto che puoi ragionare anche dopo insieme di come puoi portare una produzione che sia di rottura, che crei anche banalmente che mostri contraddizioni narrative, perché comunque ora, cioè nel senso, io ancora in questi giorni vediamo anche a seguito dei fatti di Macerata, eccetera, o anche di ieri, cioè il discorso dell'informazione, che, o anche della percezione della realtà, è folle, cioè e banalmente ci sono dei casi in cui non è un caso se a volte c'è quel tweet o quel meme o quella cosa che sbanca, che sfonda, perché coglie magari una roba che era quasi banale da riscontrare. Lo stesso blu, lo stesso basket, cioè, hanno dei concetti, a volte chiaramente bucano una contraddizione che era lì, cioè bastava veramente, no, non che fosse facile farlo, prima di trovare il linguaggio, però voglio dire, il fatto che si parli sempre più spesso di ironia, di satira, perché ci sono delle forme ora, poi per la brevità, ora qua si potrebbe stare a parlare anche di come cambiano banalmente i format dei video verticali, non verticali, però chiaramente, e quindi a volte ci sono poi si può ragionare insieme di come questi dispositivi qua si possono rompere con forme di comunicazione che sappiano stare comunque sempre sull'attuale e sul pezzo. Beh, è aperto il microfono, quindi chiunque volesse fare un intervento, anche se non era segnato fra i relatori, ovviamente è il benvenuto. Allora, vi chiedo solo una cosa: io venendo qua per caso ho visto che c'era una mostra di Gittering e di street art qua a Palazzo. Non c'è più, è terminata una decina di giorni fa. Sì, ma entrando nel cortile ho visto, no, c'è ancora, è prorogata. Ho visto che addirittura hanno messo anche delle sculture nel cortile di Buggiani. Che Buggiani, per esempio, è stato un artista secondo me molto importante, perché lui già negli anni 70 era a New York a fare della vera e propria street art, faceva quelle sue sculture di fuoco. Però, per esempio, un personaggio come Buggiani, che adesso è qui nei musei, è stato un po' rivalutato grazie anche comunque al fatto che la street art è tornata un po' in voga. prima non si chiamava street art, aveva tutte altre terminologie. Però per esempio, ricollegandomi a quello che dicevi prima, tanti anni fa facevamo anche una mostra che l'abbiamo fatta sia a Leoncavallo che in altri centri sociali, che era l'Happening Underground, che partiva dal fumetto, però prendeva tutte quelle che hanno le arti underground, le arti visive underground. E in un'edizione avevamo invitato anche Buggiani, era venuto molto volentieri, aveva fatto anche all'interno del Leoncavallo una sua performance con le sue sculture di fuoco. Quindi questo per dire, cioè, in realtà il confine è stranissimo, è veramente confuso, adesso c'è una confusione totale, non si capisce più bene, cioè, cos'è il confine di un mondo piuttosto che dell'altro. E tantissimi artisti vivono proprio grazie a questa ambiguità, e anche quelli che per decenni, cioè, magari non mettevano piede in un centro sociale, odiavano i centri sociali o non sopportavano di essere considerati underground, si sono riversati per strada, hanno cominciato a fare cose per strada, a fare cose fra virgolette illegali, per poter entrare anche loro nell'onda di questa cosa qua che vive di ambiguità, però si sta facendo molta pubblicità ed è sulla bocca di tutti. Ma bisogna ricordare che comunque tutta l'arte, ma tutta l'arte umana dell'umanità ha avuto un periodo underground. Quindi questa qui è una cosa importante che noi dobbiamo conoscere, riconoscere e farci anche forti di questa cosa. Nel senso che anche gli artisti di adesso, cioè, devono essere un po' più sicuri di sé e dire ok, noi facciamo delle cose, non siamo certi di quello che stiamo facendo, però cioè, la ricerca che nasce spontanea, che nasce dal basso, che nasce nei posti più insoliti, e anche se apparentemente marginale o non ha delle possibilità tecniche ed economiche particolari, però spesso è proprio da lì che nasce il confronto vero e nasce lo sviluppo. Quindi facciamoci forti di questa cosa qua e prendiamone atto, e soprattutto sarebbe ora di cominciare a storicizzarla sul serio. Avere le idee chiare su quello che è stata veramente la storia dell'arte, perché la storia dell'arte non è quella che troviamo sui libri oggi. La storia dell'arte ha avuto un percorso veramente interessante, veramente diverso, e andrebbe, secondo me, proprio rivalutata e riscritta da capo. Intendo in questi ultimi, diciamo, 30 anni comunque. Cioè qui, no, dicevo Marco, intendevi riscrivere la storia dell'arte di questi ultimi 30 anni, cioè scriverla bene piuttosto che i grandi libri che oramai sono diventati tipo Instagram, per cui i libri di street art sono una foto dopo l'altra senza nessuna specificazione critica di approfondimento. Cioè la street art è, cioè, il libro a casa del Street Art Atlas in cui hai tutto ma non sai che, cioè stai guardando delle opere su un muro ma nessuno ti dice cosa stai guardando, cioè un po' come se fossimo ritornati all'immagine in sé. Era una domanda questa. Secondo me anche tutta l'arte del Novecento andrebbe riscritta sotto questa chiave. Entro un attimo a gamba tesa proprio su questa domanda che secondo me è da fagiolo, cioè il punto vuole parlare, perdona. Cioè, era per entrare un po' a gamba tesa, nel senso che, cioè, qua secondo me sta proprio venendo fuori il problema. Il fatto che la street art venga bevuta è dovuto al fatto che la street art diventa un valore di scambio, diventa un asset finanziario, anche perché una tela è un asset finanziario che te lo compri oggi, lo rivendi domani e ci fai il doppio. E tutto questo ha a che fare esattamente con la dinamica di cui prima si parlava, rispetto al fatto che un artista si trova a voler produrre, a un certo punto si trova a dover, cioè, in realtà ad avere, cioè, perché poi nel 1980, quando c'era teatro, si trovava già ad avere a che fare subito con un intermediario di mercato, nel caso della street art si parla dei curatori, tendenzialmente, o dei galleristi o degli rassicuratori, anche perché poi è tutto insieme, delle istituzioni tipo museali, eccetera, eccetera, di tutta una serie di personaggi, si trova già quella figura preposta, perché è già stata costruita da un mercato che è nato ben prima che arrivassero il bomboletto spray, e sta dentro quel sistema lì. Ok? Per cui secondo me il punto è fare proprio un passo prima, ok? E qui mi riconnetto a quello che diceva prima Marco, ovvero ritornare a capire qual è realmente il potere nelle filiere culturali in generale, ok? La produzione culturale non crea un mercato se non esiste, ok? Non esiste intermediario della filiera culturale, sia esso gallerista, Warner Music, LTD o la Warner Bros. Invece del cinema, cioè non esiste intermediario di produzione, sia esso necessario perché c'hai gli studi di registrazione o non necessario, tipo le booking agency dei DJ, ad esempio, un classico ruolo che non serve a un cazzo e che succhia e basta. Non esiste nulla di tutto questo se non esiste prima quello che in camera sua si sveglia la mattina e vuole dipingere un muro, o che si sveglia in camera sua e vuole scrivere un disco, ok? Questa è la presa di coscienza primaria da fare, e da qui bisogna partire per rimmaginare un modo di produzione della cultura totalmente diverso, che sia anche sostenibile nei termini di una vita a Firenze o a Milano o a New York o dove cazzo vivi, cioè che sia anche sostenibile in termini poi di mera anche stupida economia capitalista, perché mi servono gli euro per pagare l'affitto, ma che si basi su un sistema di valori, su un sistema, su una, proprio su una ridisegna, su una, un, uno studio da capo dell'architettura stessa della filiera, su dei valori diversi che non siano soltanto la produzione di valore di scambio, ok? Perché, perché poi la produzione culturale dentro al capitalismo, cioè, perde qualsiasi tipo di valore, perché il valore di, di un prodotto non è soltanto il valore di scambio, ok? È anche il valore sociale, ad esempio. Cioè, proprio sto parlando in termini marxisti, che restituisca alla produzione tutti quei valori che invece il sistema di mercato tradizionale tralascia, perché non ci estrai il soldo col valore sociale. Cioè a me, che sono un imprenditore del mondo dell'arte o del mondo della musica, non me ne frega un cazzo di generare valore sociale con la filiera, perché devo semplicemente estrarre gli euro, non i sorrisi, non so come dire, ok? Per cui ripensare le filiere culturali a partire proprio da, cioè da un ripensamento totale di che cosa vuol dire il mercato stesso. Poi il mercato è un termine che io uso senza problemi, perché cioè io penso che possa esistere un sistema di produzione culturale sostenibile che ti fa pagare l'affitto, che poi alla fine sia mercato, che però sia bello, che sia virtuoso, che sia orizzontale, che redistribuisca. Trovare un compromesso. No, ecco, il compromesso è la rientrare nel pericolo. Sistema capitalistico comunque. No, parlo di lavorare all'esterno di quelli di quelle che sono le caratteristiche fondamentali della società capitalista, quindi la proprietà privata, ad esempio, e il profitto come scopo, perché di base queste sono le due cose che caratterizzano il sistema capitalista. Quindi uscire dal concetto della proprietà privata, uscire dal concetto del profitto, uscire dal concetto della proprietà privata in favore del comune, del common in generale, e uscire da un sistema basato sul profitto, entrando in un sistema basato sulla redistribuzione, sull'orizzontalità, eccetera, eccetera. Cioè, è molto semplice. Cioè, tu dentro comunque un sistema che è basato sulla proprietà comune di tutto e sul fatto che la ricchezza generata da qualsiasi cosa viene redistribuita, puoi vivere. No? Perché se no non crederemmo in un mondo diverso, insomma, cioè sto descrivendo comunismo, non so come dire. Ok. Cioè si tratta di ripensare le filiere culturali in maniera che contemporaneamente possano essere protette rispetto alle incursioni inevitabili del capitale, ma che riescano comunque a disegnare un sistema in cui viene dato un valore diverso alla produzione, e quindi un sistema anche diverso. Che vuol dire un foglio bianco, si va dai semplici discorsi relativi ad esempio all'abbandono del copyright, dello rights reserved nella musica in favore delle licenze Creative Commons, si va l'open source nel software, si va a parlare addirittura di economie alternative e di criptomonete, come ad esempio il Faircoin. Non so se conoscete Faircoin, che è legato a Faircoop, la cooperativa catalana, barcellonesi, che gestiscono da ormai un buon 5 anni un sistema di tipo 50.000 persone che si scambia la frutta con la riparazione dei tubi attraverso questa cosa che si sono inventati di moneta digitale interna, e stanno facendo un sistema completamente diverso da quello economico spagnolo attualmente, proprio, cioè anche sottraendo proprio quel continuo nostro nutrire il capitale ogni volta che ci compriamo un vestito, non so come dire, cioè si arriva fino anche alle criptomonete. Io sto parlando proprio di autonomia, ripensare verso l'autonomia e verso il comunismo, le, proprio lo uso questo termine in maniera spudorata, le filiere culturali. Oggi, ok, in determinate filiere questa cosa è assolutamente fattibile al 100%, come quella musicale ad esempio. Tu oggi prendi Spotify, prendi i programmi con cui si produce la musica, cioè che praticamente oggi la musica è tutta digitale, e tutte quelle cose lì, invece di farle diventare delle aziende che guadagnano impoverendo gli autori, le fai diventare delle cose di proprietà di chiunque, in teoria hai realizzato quella roba lì, è più difficile in altre fiere, come ad esempio quella che ne so, mi viene in mente, quella delle arti performative, che o del teatro ad esempio, che sono proprio due forme d'arte che oggi difficilmente sono sostenibili, nel senso che c'è una produzione teatrale, c'è di un certo livello, c'è un costo che è tendenzialmente 20 volte superiore a quello che potrebbe sperare nel migliore dei casi di avere di spettatori, non so come dire, perché proprio la gente non si cacca più il teatro neanche a portarglielo a casa, e per cui ci sono situazioni anche molto peggiori. Sotto questo punto di vista assolutamente è necessario, e qui finisco l'intervento perché sennò rifaccio un pippone, è necessario secondo me unirle, cioè cominciare a parlare di produzione culturale non più in maniera settoriale, tipo io faccio la musica e me ne sto tra i musicisti, io faccio i graffiti, io la street art me ne sto tra i graffiti, io faccio il giornalista me ne sto tra i giornalisti, eccetera eccetera, o lo scrittore, ma cominciare a capire che la famosa coscienza classica di cui si parlava prima, consapevolezza, che è necessario riconquistare, una consapevolezza che va oltre la tua filiera e che ti rende uguale a tutti gli altri produttori culturali, anche se fanno una cosa completamente diversa dalla tua. Questo è molto utile oggi.